voi o non ha capito come iscriversi oppure ok, allora lo fate, vi ricordo qual è la prassi, che peraltro molti di voi hanno fatto, andate al sito da qua, tra poco questo link dalla pagina sarà spostato più in basso, andate qua, questa è la home, no? Dall'home potete, diciamo, scrivete un'email con questo e questi dati. La piccola foto è opzionale, però a me mi diverte, insomma, averla, se vi è possibile, se no non fa niente, non è una cosa indispensabile. Avete capito alcune cose, un po' della strutturazione del corso, che queste lezioni che sono in rete, per esempio, la prima lezione che abbiamo fatto in parte la volta scorsa e in parte oggi, in realtà ha una serie di link che sono abbastanza, spesso sono molto utili per voi per seguire. Ad esempio, questo ragionamento che noi abbiamo fatto adesso sull'informazione, ogni volta è diverso quando viene fatto oralmente, perché si pongono degli accenti in una maniera o nell'altra, si seguono alcuni fili dei vostri suggerimenti o idee, eccetera. Quindi ogni volta segue un canovaccio un po' diverso, non è mai uguale, però c'è un testo, voi potete leggere, anzi forse sarebbe una buona idea leggere questo testo. Il testo che riguarda la discussione che abbiamo fatto sull'informazione è questo: informazione materia prima dell'architettura, e da qua ci si va, lo si vede in rete, e quindi lo potete tranquillamente leggere, stampare e fare una serie di altre cose, soprattutto leggere, ma insomma si può leggere e stampare, si può fare un po' come si vuole. Come vi dicevo, questi sono articoli prima redatti su carta e poi successivamente pubblicati in rete. In alcuni casi, alcuni articoli, come questo in particolare, erano originariamente delle lezioni, praticamente come questa che avete appena assistito, solo successivamente sono state trasformate in una versione di un articolo pubblicato e pubblicabile, e adesso ritornano, diciamo, come link, ma originariamente questa era soltanto una lezione e c'era soltanto un approccio orale, e era una lezione che non c'era sempre nella storia del corso. Questo tipo di lezione è stata fatta, credo, da 3 anni solo, 2 anni a questa parte, proprio perché mi sono reso conto che nelle prime fasi del corso era importante avere una base riflessiva, se non teorica, su questi argomenti dell'informazione. E adesso arriva, come dire, la novità. Quindi il primo to do è questo qui. Scusatemi, voi vedete la pagina come la vedo io o vedete un'altra cosa qua in basso? È esattamente come la vedo io? Questa lezione 1? Sì. Non capisco per quale ragione non riesco a fare evidentemente il rinnovo dell'FTP. Ho fatto 8 volte. E 8 volte non mi è venuta, non riesco assolutamente a capire qual è la difficoltà. Vabbè, facciamo così, torniamo al sito base, lo facciamo manualmente da qua, torniamo proprio all'home, non trova più l'home. Oh. Che succede? Forse c'è uno sbaglio. Ok, ci siete all'home? Ci siete tutti qua? Ci siete o no? Oh, allora, Forse avete visto, avete fatto caso, che io quest'anno ho scritto questa cosa. Quest'anno le lezioni del corso possono essere seguite in formato audio sul blog con link alle immagini oppure scaricate sugli MP3 player attraverso iTunes Music Store. Quanti di voi hanno provato questa cosa? Potete alzare le mani? Una persona. Che cosa succede qui? Succede che se voi andate al blog, cioè qua, vai al blog, entrate in un altro sito, adesso ci sta mettendo tempo perché tutti di voi contemporaneamente lo state facendo, ecco, state entrando in un altro sito e questo sito è... che adesso caricherà nelle vostre pagine e tutto, ha questa, diciamo, un attimo che finisce di caricare, ha prolusione, modernità, crisi, informazione, tecnologia, architettura e crisi, parte seconda, e la parte prima, come mai non c'è? Voi la vedete la parte prima? Che è successo? Che è successo? Fatemi capire come mai non si vede più la parte prima. Dunque. Ecco, ne avevo fatto una modifica e non l'avevo pubblicata, ecco che cosa c'era. Eccola, quindi ci sono entrambe le parti. Cosa succede qua? Potete fare un refresh e vederla anche voi. Che cosa succede qua? Qua succede una cosa abbastanza interessante, e cioè che la prolusione al corso, alcuni di voi non c'erano e vi consiglio caldamente di seguirla perché la, diciamo, rappresenta la base un po'... una base importante per il corso, sono in formato audio, e cioè si possono ascoltare facendo clic da qua. Vi consiglio di non farlo in questo momento, perché se fate clic da là, siamo una quindicina di persone, come dire, 15 persone accedono al file tutti contemporaneamente e quindi magari si rallenta, però l'idea di massima è che facendo clic da qua voi sentite la lezione, non solo la potete anche scaricare e quindi sentirla dove volete, oppure se volete andare e se siete abituati ad usare un MP3 player potete andare su iTunes Music Store attraverso l'altro link che vi era stato dato nei link e scaricarla direttamente in un lettore MP3 player e quindi sentirla in metropolitana, sentirla in varie occasioni, eccetera. Allora, questa è una cosa che io progressivamente voglio fare per tutte le lezioni. Mi ci vuole un poco di tempo, non tanto, ma mi ci vuole un poco di tempo, ecco perché in questo momento c'è soltanto la prolusione e non c'è la prima lezione e non c'è ovviamente la seconda perché la stiamo facendo. Però in linea di massima l'idea è quella di rendervi disponibili tutte le lezioni. Che bella cosa, voi dite. Magari, ecco, noi ci avevamo un sito, ci avevamo tutti e manco avevamo capito che era possibile riascoltarla. Non dormivo la notte per il fatto che io non ero presente alla prolusione, e invece qualcuno mi aveva detto che era molto importante questa prolusione, e ahimè io non l'ho potuto sentire. Invece adesso, in questa maniera, la potete sentire se volete sul vostro computer, oppure ve la potete scaricare sul lettore MP3 player. Ci siamo? Capite tutta la terminologia che sto usando? È chiaro? Vi prego, abbiamo enormemente apprezzato una persona che ha detto: io non ho capito una determinata cosa. daremo un premio a ogni persona che ci dice che non ha capito. Allora, dai. Allora, Moccia Marta. Chi è Moccia Marta? Scusi, guarda, è per pura coincidenza. Allora, se lei è una pura coincidenza, le posso assicurare. Che cosa è sta storia dell'iTunes Music Store e dell'MP3 Player? Esatto. Come lo può fare? Glielo faccio vedere. Può farlo in due modi. In questo modo lo può scaricare. Non lo fate voi perché sennò... vedete, qua c'è questo link nel blog Apple Music Store di Asaggio. Se voi fate clic qua e avete iTunes installato, potete andare direttamente. iTunes si installa sia in Mac sia in Windows, è uguale. Andate qua e ci andate direttamente. Adesso lui, il computer, sta leggendo questo link, che è un link un attimo più complesso perché dovrà aprire l'altro programma. Adesso lo sta facendo, ci sta pensando. One moment please, connecting to the iTunes Music Store. Ecco, ci sta andando, ecco, ci è andato direttamente. Eccolo qua. Questo è la parte dell'iTunes Music Store. Se voi andate qua, non lo fate perché sennò rallentiamo, e fate clic su questa, la prendete, ci vuole un pochettino, ma non tantissimo tempo, perché sono 7 megabyte. Si prende e si scarica. Una volta scaricata la potete spostare dove volete. Se non volete fare tutto sto tragitto, lo potete fare qua direttamente. E cioè da qua ascolta la produzione, questa è la seconda parte e questa è la prima parte. La prima parte prima non funzionava, adesso funziona. Ho avuto degli SOS di persone che non facevano parte del corso, suppongo, perché erano tutti anonimi. Però erano delle persone che seguono questo blog e mi dicevano aiuto, la prima parte non funziona. E allora io l'ho aggiustata e adesso funzionano tutte e due tranquillamente. Infatti se vedete questa cosa, questo è. Dopodiché ci sono il link è abbastanza importante. Scrivi, no scusatemi, non è questo link, questo ve ne parlerò dopo. Vedi le immagini. Questo qui non è altro che il link che voi potete andarci anche dalla home page del corso, che sostanzialmente vi dà tutte le immagini, le immagini prevalenti e i link agli articoli di cui avevamo citato della prolusione. Quindi qual è lo scenario che io immagino? Che una persona che era stata in grande ansia giustamente dal fatto di non aver seguito la prolusione la può fare dopo vedendo il link, cioè scaricando l'audio e contemporaneamente scorrendo le immagini. Perché lì si parla di Brunelleschi? Boh, c'è una ragione. Perché si parla di questo e di quest'altro e di quest'altro, quindi si possono, diciamo, vedere le immagini oltre ad avere i link. E adesso gradualmente veniamo a voi e voi avete circa 20 minuti di riposo per me e di lavoro per voi per farvi capire come questo corso funziona. E quindi per la prima volta facciamo un esperimento in tempo reale. Siamo. Quanti di noi la sentiva la produzione? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo. Allora, innanzitutto facciamo una bella cosa, perché lavoriamo in maniera, diciamo, compatta. Dunque, abbiamo detto che sono 8 persone, vi voglio mescolati, cioè, allora, alzino le mani da questa parte chi ha seguito la produzione, tutti e quattro, da questa parte chi non ha seguito la produzione, chi non ha seguito, 1, 2, 3, 4 e 5, allora, lei ci seguirà accanto a lei, queste altre persone, guardate, lei si siede accanto a lui, lei si siede accanto a lei, poi qui, e lei si siede accanto a lei, d'accordo? Poi, gli altri si combinano, cioè la mia idea è di avere almeno una coppia formata da una persona che ha seguito la produzione e di una persona che non ha seguito. Si chiama ragionamento. La regola è questa, chi ha seguito la produzione rimane seduto dov'è, eccetto quei tre che si sbagliate, d'accordo? Gli altri si spostano, è chiaro? Allora, che cosa avviene a questo punto? Una crisi grave. Io ho preso e ho fatto la mia produzione. Ho fatto, ho ragionato, ho pensato, poi l'ho presa, l'ho rivista, l'ho riguardata e ho detto CAA.ZO, mi sono dimenticato la cosa giusta. Cioè, mi sono dimenticato di inserire un'architettura che rivelava questa tesi della lezione in maniera fortissima. E dico, ma come cazzo l'ho fatto a dimenticarmi questa architettura che per me era quella più importante di tutte, ma come cazzo che l'ho fatto? Me la sono dimenticata. Allora, siccome noi abbiamo teorizzato, giusto, che in qualche maniera di queste cose dobbiamo fare tesoro, mi è venuta in mente questa esercitazione, che siccome quest'anno siamo in pochi, è un grandissimo vantaggio essere pochi, cioè possiamo fare un tipo di lavoro più approfondito e più seminariale, che quando il corso è molto numeroso non si poteva fare, quindi questa è un grande vantaggio. Allora, qual è l'idea? L'idea è che queste coppie che si formano, o coppie o triplici, discutono brevemente la persona che ha seguito la produzione con la persona che non ha seguito la produzione, discutono brevemente, 5 minuti, del contenuto della testa, senza scaricarlo, perché scaricarlo sono 2 ore. Quindi, diciamo, c'è un vago aggiornamento, proprio, il vago aggiornamento va con i limiti delle linee. Dopodiché viene la cosa. E cioè che cosa? Che la inserite voi, il gruppo delle 2 o 3 persone, la inseriscono loro l'architettura che ritengono dal loro punto di vista un'architettura fortemente esemplificativa della tematica. Mezz'oretta. Importa che sia il massimo velocibile umano? No. Importa che, diciamo, noi timidamente o non timidamente ci muoviamo su questa cosa? No. L'importante in questo primo momento è attivarci, e attivarci su un modo di lavorare, su una maniera di riflettere, su una maniera di mescolare l'informazione. No? Questo è l'aspetto. Quindi, voglio dire, se la cintura chiave, diciamo, che voi pensate è una cosa, vabbè, è quella che voi pensate, che meglio può esprimere questa, diciamo, questa tematica. Dopodiché, che fate? Che fate? È facilissimo dire che fate. Perché ho portato in questa cadetta, secondo voi? Cioè, perché ho portato nel blog? Perché il blog è fatto apposta per poter con grandissima facilità aggiungere questa cosa. Allora, che cosa fate voi? Avete mezz'ora di tempo, di orologio, non di più, non di meno, ecco perché lo spostamento deve essere rapido e soprattutto ve dovete smezzare. D'accordo? Oh. Dopodiché, alla seconda lezione, non importa che sia alla seconda parte della prolusione, andate dove c'è one comment, link to this post, one comment, ecco, andate qua, c'è un comment, allora, lascia il tuo commento, allora, il mio gruppo appena... Oh, scusatemi, non mi funziona la tastiera come vi ho appena detto. Il mio gruppo appena formatosi, interessante questa cosa, appena formatosi, ritiene che un'architettura particolarmente significativa meraviglioso veramente questo, sia puntini giustini, in base a questa ragione. C'è un modo di poter scrivere qui un link a un'immagine, cioè potete fare un cut and paste con l'immagine, ma se no non fa niente, d'accordo? Basta il testo, d'accordo? In cui voi scrivete, dopodiché scegli un'identità, è Antonino Saggio nel mio caso, altro o anonimo, voi potete mettere altro i nomi dei due o dei tre componenti, d'accordo? E questo qua lo mettiamo, ecco qua, verifica le parole che ti dicono, io non lo posso fare, vedete, non posso verificare perché io se scrivo I mi viene S, se vedo B mi viene, cioè mi viene macello praticamente perché c'è la tastiera che non funziona, ma voi risegnate quelle cose e gli diciamo pubblica il tuo commento, tac, ed è pubblico il tuo commento. Qual è la bellezza? Che tra mezz'ora noi ci facciamo, ci risvegliamo tutte le cose, è chiaro? Mezz'ora loro, sono esattamente le 5 e mezza. Spostatevi, io me ne vado, mangiatevi, spostatevi, accendete il computer più in là, separatevi, voi due non stavate insieme. No, non vi voglio insieme, voglio che chi sta vicino vada lontano, voglio che vi mescolate, perché l'operazione è sempre a mescolarvi. Allora, lei ha fatto la traduzione? Chi ha fatto la protezione a lei la metto con lei. Ecco. Poi, a parlare se c'è una persona. Volete la protezione? Benissimo, passatevi. Chi sì? Lei. Lei? No, con lui. Poi due, mangiatevi. Voi però avete le altre due? No, una solo? Lei sì. Allora, lui un'altra persona al posto di lui. Quanti ha seguito? Tutti e tre. Chi non ha seguito? Lui non ha seguito, guarda la signora, la nostra luce. E lui invece non è cavante, le dovete mescolare con lei. Lei ha seguito? Lei non ha seguito la signora. L'ha seguito lei. Allora, lei è che lei ha seguito. Poi, guarda, non so, accendere, forza, ah, abbiamo messo la diretta. Lei come sta? Andate, non si va a parlare. Lei come sta? Lei ha seguito? Lei a casa, ecco la nostra. Con lui, voglio che ha seguito? No, chi ha seguito ancora di voi tre? Se potrei con lui, per cortesia. Ma con lui, poi, lei, chi ha seguito? Lei, allora, no, ma mi voglio che sia mescolare. Lei ha seguito? Lei ha seguito? Allora, lei andiamo con la sua collega. Lei è con la sua collega e lui sempre con lui, perché questo funziona più chiaro, giusto? Ok. Allora, poi siete un gruppo stretto, ma la resta la forma. Questi siete contati, poi siete contati, ok. Tutto sotto controllo? Ok. Avete preso la potenza? Ah, no. Ah. Ok, allora alle 6 ci rivediamo. Perché ne sia morto il computer nel frattempo è interessante da capire. Ve le troverete, ecco, vedete, adesso sta cominciando a registrare. È una cosa che stiamo facendo da quest'anno, si sentono bene o male, si dovrebbero registrare più veloce possibile. Allora, detto questo, adesso vediamoci la sorpresina. Eccolo qua, abbiamo ben 9 commenti. Aha! Adesso ci divertiamo un po'. Con un anonimo ha detto, complimenti, la lezione non ci interessa. Un altro anonimo ha detto... E dice lascia il mio commento, poi lo faremo alla fine. E secondo noi l'architettura della crisi potrebbe essere adeguatamente rappresentata dall'immagine che si trova al link seguente. A questo punto ci chiede perché, se seguite il corso fino alla fine lo saprete. Adesso noi speriamo che questo anonimo, che tra l'altro si pubblica come anonimo, non ci metta una cosa terrificante, tipo che ne so, però siccome siamo incuriositi e sicuramente uno dei presenti che ha fatto questa cosa, speriamo che non sia una cosa terrificante, però accettiamo il rischio o no? lo prendiamo il rischio, vabbè, se no che uomini siamo, prendiamo questo rischio, vediamo un po' che cosa quest'anonimo che ha capito la tecnologia. Ah, ecco, purtroppo manca qualche cosa, manca un pezzo della cosa, forse, che so, vediamo adesso che siamo furbi, Expo HCM. Ah, ok, allora sono io che l'ho copiata male. Ecco, adesso ci sta andando. Sto caricando il 404 not found. Vabbè, questa persona o questo gruppo di cose ci può provare, nel frattempo magari ce la vediamo. Manca qualche pezzo, magari ce lo mette nel... corregge quel blog o ne aggiunge uno? Ecco. Non è completo l'indirizzo, va bene, così impariamo man mano le cose. Allora vediamo un altro. Giustino e Lavinia ha detto, secondo loro l'architettura della crisi, scusatemi, Giustino e Lavinia ha detto, secondo loro l'architettura della crisi potrebbe essere la Maison a Bordeaux di Ren Collas. Di seguito il link per un'immagine esemplificativa. È questo, molti di noi la conoscono, ma se per caso qualcuno non la conoscesse, eccola qua. Eccola qua, chiaramente qua si vede bene, però c'è anche questo. È una scelta molto interessante questa qua, secondo me. Vediamo un attimo, perché è una scelta interessante? Chiaramente loro non ci hanno detto nulla, però chi conosce l'opera è in grado di capire perché è una scelta interessante. Allora, qualcuno che non è Giustino e Lavinia, ma che so, uno a caso, per esempio Luigi Viapiano, perché secondo te a me mi ha colpito questa scelta, ma forse mi ha colpito perché io conosco l'architettura. Lei la conosce quell'architettura di cui loro parlano? No, fermola. Valentina Pennacchi la conosce? L'architettura che hanno segnalato i suoi colleghi? Vabbè, fa niente, succede. Alberto Lelli. Come? Va bene. Aurora Rocchi. Vabbè, fa niente. Dobbiamo, mano a mano andiamo, ci abituiamo ad andare a una certa velocità. Anche Massa ieri si è perso. Andrea Felicioni. Ecco, perché? Ha presente quello che ha fatto vedere loro? No? No, benissimo. Ma non fa niente. Martino Palladini, lei non è che fa parte del gruppo? No, è, ha capito cosa fanno vedere e perché? Giusto. E allora? Vedi un attimo, è una cosa importante. Scusa. Ecco. Esattamente. Quindi mica soffessi questi due, che erano Giustino e Lavinia. Dove sono? Hanno dato un bel contributo Giustino e Lavinia. Avete visto come anche il prima cosa è cominciare a lavorare insieme, come ci si muove subito su un livello superiore? Adesso qualcuno di voi si ricorderà meglio di questa cosa, perché probabilmente la conoscete. Hanno ragione, è una cosa molto... Chiaramente già si muove a un certo livello, vuol dire tante cose insieme, quella è tutta una casa in cui il problema della disabilità della persona da elemento di crisi diventa elemento, diciamo, di circostetica, è la cosa che dice, no? Mi hanno dato un contributo da poco. E come dire, ci comincia a far riflettere. Tra parentesi, la casa in sé è significativa, ma adesso al di là della casa significativa o non significativa, è una piccola cosa che si aggiunge al discorso comune, è un vero contributo questo che hanno dato. Chi non conosce la casa se la fa vedere, magari stanotte, perché è una cosa effettivamente molto significativa. E secondo me è interessante. Va bene. Ok. ci è piaciuta, cioè ci ha pagato tutto il tempo del che abbiamo trascorso a fare questa apparente gioco, che non è un gioco per niente, evidentemente. Immagine che si trova al link. Ah, ecco, tra l'altro era questo il link, no, questo è l'anonimo. Giustino, di seguito il link per un'immagine esplicativa. Vediamo a quest'altro, AEM. Ecco, già si sono definiti in una maniera particolare. Lezione molto interessante, tuttavia ci è venuto in mente che un'architettura significativa rappresentata in una reazione alla crisi può essere quella di Sant'Elia del movimento futurista, come superamento di un passato statico verso un futuro in continuo divenire. E why not? La vogliamo vedere, Sant'Elia? Vediamola, perché no? Anche perché, voglio dire, i vari personaggi, tra cui Sant'Elia, tutto questo problema del modernismo come crisi profonda la sentono veramente a tutti i livelli, nel bene e nel male, no? Perché, cioè, in due parole, che succede? Cioè, il movimento futurista è quello che non soltanto fa architetture utopiche, ma crede, diciamo, non utopiche, architetture in rapporto a questa potente evoluzione industriale, ma come dire, ci crede, chi sono loro due? Chi erano loro? Voi tre. Ma ci crede visceralmente, no? Ci crede in toto. Tra parentesi, quando diciamo del bene e del male, il grande elemento di grande elemento di scelta e di crisi è la situazione della guerra, no? Che loro fanno in prima persona, partono montati in questa bella follia collettiva, che molti ci mettono la pelle, tra cui, tra parentesi, proprio Sant'Elia. Quindi, voglio dire, tutta questa questione non è proprio così leggera. E il rapporto con il dinamismo, industrialesimo, nuova architettura, fa parte proprio di un momento che è un momento che si contraddistingue in una maniera globale, no? E quindi, insomma, ci sembra interessante. Poi, vediamo un po' che cosa ci abbiamo. Riandiamo qua. No. Dunque, i commenti li vedo qua. Allora, Chiara Conte e Lapo Parsellini hanno detto: pensavamo di inserire l'opera di Le Corbusier e Vinsavois per aver risolto la crisi dell'architettura del dopoguerra in termini costruttivi, compositivi e spaziali del tutto nuovi. Senza dubbio. La Vinsavois la si conosce tutta, fa parte di un'opera paradigma da un certo punto di vista, no? E quindi ha queste caratteristiche, e la conoscete tutti, quindi non credo che ci sia bisogno di andare oltre. Aiello ha detto: Peter Eichmann, Aronoff Center for Design and Art, Cincinnato, Ohio. Può essere considerato un'architettura della rottura in senso positivo, perché anticipa i caratteri salienti dell'informazione tecnologica. Il taglia e incolla delle singole parti che compongono l'insieme. Questa è una Aiello stava da solo? Ecco, vabbè, ha segnato soltanto uno, siete voi due, no? Stefani e Alberto hanno detto: secondo noi un'architettura di passaggio dalla crisi alla modernità è la stazione dalla crisi alla modernità, come sarebbe? C'è qualcosa che non ci convince qua. È la stazione dei pompieri di Zadi da Vidra. Cioè, qua la dizione è un pochettino strana, no? Perché dalla crisi alla modernità, cioè, non è dotata di senso comune all'interno del discorso che stiamo facendo. È chiaro questo, oppure è il caso di ripeterlo? Chi è Stefani e Alberto? Vi rendete conto, no? Il passaggio dalla crisi alla modernità non è dotata di senso comune rispetto a come abbiamo imposto, diciamo, una cosa rapida scritta così. Rossi Maria Azzurra e Rocchi Aurora hanno detto: per il nostro gruppo proponiamo due crisi dell'architettura ricordanti entrambi il tema del museo. Una è inserita nel tessuto architettonico romano con un intervento invasivo, il Maxi di Zadig, e l'altra è il progetto del Guggenheim virtuale progettato dal gruppo Asimtop, che dovrebbe essere visitabile e messo presto in rete. Sono una il futuro dell'altra, e la crisi è rappresentata dall'impossibilità voluta della messa in opera. Che cosa intendi dire, mi ragliare esattamente, dell'impossibilità voluta della messa in opera? Quindi diciamo è un'opera virtuale, non è fatta per essere realizzata, d'accordo. Alessandro e Luigi ha detto: la necessità tipicamente contemporanea di non radicarsi più in un luogo crea un'architettura temporanea ed emergenza all'occorrenza, come le case montabili e trasformate di Jennifer Siegel. La crisi è oggi la necessità della mobilità, e quindi a questo punto qui ci parla di Jennifer Siegel, che quanti di noi conoscono? Domanda. Io per esempio no, se vi devo dire la verità. Allora faccio questo: si chiama Jennifer Siegel, così è scritto? Per essere sicura ci batto Architecture, perché magari c'è una Jennifer Siegel che fa altre cose, non so, nella vita, e non vorrei capitare nel suo sito. E vediamo che chi è che fa Jennifer Siegel. Design, vedete, non l'ho beccata subito? Design Mobile Architecture, eccola qua. C'è un articolo su di lei. Non è il suo sito, eccola qua, però si capisce che è quella che dice, che dite voi, quindi probabilmente se mi metto un attimo a leggere, se sono bravo in un quarto d'ora mi c'ho anche l'email, probabilmente c'è un sito suo proprio. Sicuro che non vado a finire male? Sì? Eccola. Eccola qua. Sì, anche così bipartito, no? Trip for Architecture e Trip for... ma è interessante questa soggetta. E voi come l'avete scoperta? È interessante, lei pone tutto dal termine della mobilità proprio, la mobilità è la sua... Bello, bene. Sì. Perfetto. Vediamo un attimo se ci sono altri commenti. Perché non c'è tutto? Ah, va bene, ok. Ah, eccolo, scusatemi, non avevo visto. Allora lo rivediamo il vostro. Ok. Ecco. Eccolo qua. Mi sa che è partito? A voi è venuto? A voi sì, vabbè, forse il Mac è più lento. Comunque io ho già capito che cos'è, perché l'ho capito dalla dizione del CH. E lo volete dire voi cos'è? È il padiglione di Dillere Scofidio per l'esposizione svizzera, che è effettivamente un'architettura paradigmatica del grande cambiamento di oggi. E quindi su quello ci torneremo, ci lavoreremo, però insomma sicuramente ha queste caratteristiche. Ognuno di questi elementi, come dire, sono poi delle mini crisi che ognuno decide se continuare o non continuare, perché per esempio questa cosa di Colas è sicuramente un'opera molto significativa. Probabilmente la Villa Savoia la conosciamo, è difficile che ci ponga in crisi, perché diciamo magari, ecco, se qualcuno di noi non sa chi è la Villa Savoia, allora sì, la crisi è duretta effettivamente da digerire, ma in linea di massima, dando per scontato che conosciamo di cosa parliamo, è difficile che metti, diciamo, una crisi conoscitiva. Invece la cosa di Colas magari lo è, quest'altra magari lo è, e il caso della vostra architetta che si muove su un mobile è anche quello. Questo vuol dire che abbiamo tempo e risorse, le affrontiamo, e se no le demandiamo. Comunque c'è un aspetto infinitamente positivo in questa maniera di interagire, lo capire, che non è soltanto la cosa di poter, come dire, lavorare anche con intelligenze interconnesse, e non soltanto come, diciamo, uno che parla e gli altri che sono, ma anche un discorso più complesso e più ricco, ma c'è anche un fatto insito nella tecnologia. E che cioè, se io alle 3 di stanotte improvvisamente mi viene l'idea che voglio studiare questa determinata architetta, la Siegel, lo posso fare perché parlo nel blog, apro il commento e seguo il link, giusto? Cioè ce l'abbiamo lì, non è così complicato il fondo, quindi la tecnologia ci viene in grande aiuto. Finiamo la lista. Vediamo se c'è. Peter Eisman, Rosario Madre, Alessandro e Luigi hanno detto. Alessandra e Luigi hanno detto. La necessità tipicamente contemporanea. Ah no, questo l'abbiamo già visto. Valentina e Marta hanno detto. Secondo noi un esempio di architettura della crisi può essere l'abitazione di Le Corbusier. Certo, Castiglia. Perché affronta in modo rivoluzionario il tema della vita comunitaria, tenendo presente le nuove esigenze della società senza annullare l'individuo. E caspiterina, certo. E anche l'unità d'abitazione di Le Corbusier è una cosa che sicuramente voi conoscete, che ha tutti questi presupposti. Qual è la mia architettura della crisi? Ricordatevi, ve lo dirò, non abbiamo finito, abbiamo fatto tutto e finito. Ma allora che cos'era quella cosa? Ce lo dice, quando è tutto finito ve lo dirò, va bene? Allora, abbiamo una mezz'ora che non possiamo sprecare. Allora io direi di, innanzitutto, perché questa cosa del blog? Perché fare un blog ci vogliono dai 2-3 minuti, cioè la struttura che voi avete fatto adesso utilizzando il mio blog e che vi chiedo di incrementare un poco, cioè a me piacerebbe, è franchezza, che le persone che non hanno seguito la conferenza, la produzione, e che l'ascoltano, magari gli dico, grazie, ho ascoltato, in effetti questa cosa è interessante, o questa cosa mi ha colpito. Se volete, se non volete non fa niente. In altri casi sarà un po' più strutturata questa cosa, come questo. Ma la cosa più importante e più interessante è che voi stessi abbiate un blog. Un blog che in un primo momento può essere una cosa abbastanza semplice, o anche semplicissima, ma che poi mano a mano si può, diciamo, implementare, ed è comunque un terreno interessante di scambio e di importazioni di cose. Non ci vogliono più di 5 minuti, come si fa? si fa così, non ve ne insegno nei dettagli perché veramente siete tutti in grado di farlo. I blog ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le razze. Io ho provato questo perché mi veniva comodo, ma praticamente si fa così, si va, se è questo il blog, ma potete andare ovunque. Dunque, vediamo un attimo come si fa. Ecco, si va a www.blogger.com. Ecco, adesso lui va nel mio perché legge il mio, ma se voi andate semplicemente nella parte scritta lì, ah no, se è registrato esci, scusate, fammi vedere. Ecco, allora qui crea subito il tuo blog, ci vuole due minuti di tempo, create il blog e poi molto facilmente, in maniera estremamente facile, aggiungete in primo momento soltanto dei brevi testi, poi è facilissimo anche aggiungere immagini e link, è tutto qui dalla tecnologia. Però la cosa più interessante è crearsi il blog, ci vuole pochissimo tempo, io l'ho insegnato a fare anche a amici e colleghi molto più per varie ragioni, gli devo spiegare come era molto utile avere un blog per fare determinate cose. L'idea qual è? Che quando si ha lo strumento, poi si sa come usarlo. Ma questo è un riferimento caso della vita, si fa lo strumento e poi si scoprono mille modi per usarlo. Bisogna avere qualcuno che ti dica guarda che se serve la vice un martello, tu non sai che mi fa, ma questa è utile. Questo è il ragionamento. Allora, non è una cosa obbligatoria del corso, ma fatelo, provate a farvi il blog, non ci vuole molto, anzi ci vuole pochissimo. Ti preventivo 5 minuti. In pratica la cosa importante è seguire questi 2-3 step. È completamente gratuito, ovviamente, e ti permette di creare, diciamo, una rete di cose di cui in questo momento avete visto questo. Segnatevi soltanto il nome e la password che date al vostro blog, perché se no se perdete quello dovete conoscere tutto la casa. Insomma, questa è il massimo della pubblicità, non è che dopodiché avete uno strumento molto molto agile. Se seguite questi sistemi praticamente vi dice un po' tutto loro, ce ne sono di vari, di blog ce ne sono migliaia, io vi ho indicato questo semplicemente perché io conosco questo. In realtà io perché ho fatto blog? Ho fatto blog perché è da anni che esiste la tecnologia blog, io l'ho fatta quando mi era venuta in mente questa idea di avere l'iTunes Music Store, cioè di avere le lezioni o le conferenze in linea, e in realtà in realtà il blog per far quello è una cosa obbligata dal punto di vista, che cosa che a voi in questo primo momento non interessa particolarmente, non è che voi fate il blog per avere il vostro audio in linea nell'iTunes Music Store, che è tutto un altro discorso, però la tecnologia del blog è abbastanza interessante, anche perché se vi va potete aggiungere quella cosa, lo fa lui automaticamente, che si chiama AdSense, che serve per far capire come lavora Google, in questo caso lo vedete, quando vi chiede le varie cose voi dite AdSense sì, dite sempre sì, vi appariranno queste cose bizzarre. Non ci diventerete ricchi, è molto improbabile che diventiate ricchi, ma è molto interessante capire come funziona questa tecnologia. E poi che cosa? Tra l'altro nei browser di nuova generazione, non so se in quelli vostri, questo è un plus, una cosa in più che ha il blog, ha questa tecnologia che si chiama RSS, che è una tecnologia che vi dà i riassunti automaticamente delle pagine. Ecco qua, cioè io per esempio il sito, vedi, lo organizza in tanti modi diversi, è come un database, vedete, questa è tutta una tecnologia importante che serve soprattutto per, adesso non voglio entrare in questa faccenda perché serve, comunque serve in realtà. Comunque questo è tutto secondario, la cosa interessante è se volete provate a fare un blog. quasi tutti gli studenti sanno, diciamo, che cosa sta succedendo, in realtà farete ben meglio di un blog, però se volete provare a farlo, lo fate. Allora abbiamo mezz'ora per ritornare dopo questo esperimento che mi sembra estremamente riuscito. Siete contenti? È riuscito bene, no? No? Niente. È riuscito bene o no? Oh! Ah, meno male, ho capito. Mi pare che sia riuscito bene, sì, eh? Allora, detto questo, torniamo allo sviluppo della lezione. Abbiamo da prendere una scelta abbastanza importante che faremo durante, se ce la facciamo, non so se ce la facciamo oggi, quindi dobbiamo finire alle 6 e qualche minuto, vediamo. Allora, ok, allora abbiamo riflettuto nella prima parte della lezione su questo, questa importanza dell'informazione in una maniera, come dire, la vogliamo chiamare teorica, vogliamo dirla cognitiva, vogliamo dirla che ci ha dato una cornice mentale per operare all'interno dell'information technology, vogliamo dire che ci è servita quantomeno per capire, diciamo, in maniera convenzionale tra noi, che una cosa è il dato, una cosa è l'informazione, una cosa è il modello, a livello minimo abbiamo stabilito una maniera di capirci, che io quando dico dato è una cosa diversa dall'informazione, una cosa diversa dal modello, a livello un po' più basso. A livello un po' più complesso ci sono altre cose, che magari rileggendo il testo, approfondendo, risentendo, rifacendo, mano a mano così. Allora, adesso invece spostiamo il nostro sguardo sulla parola informazione e invece di guardarla da questo punto di vista, diciamo, cognitivo, la guardiamo dal punto di vista socio-economico. La guardiamo, quindi, lo guardiamo dal punto di vista diverso. Abbiamo accumulato le cose che dicevamo prima. L'informazione, la informazione, il valore convenzionale, eccetera, eccetera, e invece ci spostiamo improvvisamente dall'altro punto di vista. E scopriamo una cosa pazzesca, ma proprio pazzesca pazzesca. La cosa pazzesca pazzesca è che la nostra società in cui viviamo oggi è una società che crea valore e ricchezza esattamente sull'informazione. È una cosa abbastanza straordinaria, se ci pensa un attimo, con gli occhi socchiusi, come dico io, lo dico improvvisamente, c'eravamo addormentati 400 anni fa, ci svegliamo improvvisamente nel 2006 e vediamo che enormi parti della popolazione, di una parte del mondo occidentale, in realtà apparentemente non sa niente, non zappa la terra, non trascina peli, non sa niente sostanzialmente, non si scannano con i coltelli e le lance. Non lavora sulle macchine, ma sostanzialmente, apparentemente, non c'è niente. Noi ci siamo svegliati dopo 400 anni e vediamo da bizzarrissima la società, ma veramente strana. Se tu ci pensi un attimo, è proprio strana. Ma che caspita fa? Ma che caspita fanno tutte le persone? È una domanda veramente interessante. E come fanno tutte le persone a campare? Ma come? Non ho capito. Tutto il mondo che io conosco era un mondo legato sostanzialmente alla terra e al lavoro relazionato alla terra. Adesso, dopo 400 anni, mi ritorno nello stesso luogo e si hanno sostanzialmente all'interno dei miei vecchi anni. Un bello shock. Un bello shock, mi avrei cambiato che ci vengono un attimo, se vengono da questo punto di vista. che cosa è successo? È successo che siamo in una fase storica completamente diversa da quelle che ci hanno preceduto. E questo completamente diversa si deve per un pezzo importante dal fatto che ci sono tecnologicamente delle cose che 400 anni fa non c'erano, e per l'altro verso è che le percentuali delle cose che io ero abituato a vedere 400 anni fa sono talmente diverse in percentuale l'una con l'altra che praticamente costituiscono un mondo diverso. Mi chiedo meglio. Allora, la prima parte è che tecnologicamente c'è qualcosa di completamente diverso. L'altra parte è che percentualmente le cose sono talmente diverse le proporzioni da fare una realtà completamente diversa. Mi spiego? Fermiamoci su questo secondo concetto, perché è più facile, non è più facile, è più potente, è una penetrazione più potente nella vostra testa. Quindi, che cosa succede oggi? Che le percentuali delle, diciamo di ogni bene prodotto, sono variate molto drasticamente rispetto alle percentuali del prodotto. E qua c'è una grande crisi che si deve risolvere nel giro di 30 secondi, un minuto massimo. Qual è la crisi, miei cari? Qual è la crisi? No, molto terra, non mi sentivate. Lo so, forse il fatto che c'è una parte del pianeta che è sempre più ricco, che ha sempre più bella distinzione, una parte del pianeta che è sempre più povero. Senza dubbio. Però il mio problema è con un ricchi personale, interna, mia e nostra. Cioè dobbiamo scegliere un esempio per far capire questo cambio percentuale. Dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere un esempio, come facciamo a fare questo esempio? Allora, dobbiamo scegliere un vegetale. Dobbiamo scegliere un vegetale, e questo è il problema grave. Allora, dobbiamo scegliere un vegetale. Perché dobbiamo scegliere un vegetale? Perché vogliamo fare un esempio che vi possa, come dire, caratterizzare un po' questo esempio. Questo. Allora, poniamo un carciofo. Allora, immaginiamo un carciofo prodotto 2000 anni fa, o anche di più, 8000 anni fa, 10000 anni fa. No, immaginiamo come si produceva allora, non immaginiamo come si fosse prodotto allora. Probabilmente questo, possiamo dividere questo vegetale, diciamo questo carciofo adesso, diciamo, in una serie di componenti, nella sua unità di prodotto carciofo, non so bene come si disegna un carciofo, non ci ho mai pensato molto bene, comunque qualcosa del genere. Allora, diciamo, se noi lo vediamo come entità di prodotto, possiamo pensare che nel produrre il carciofo ci sia il 90%, diciamo il carciofo 10.000 anni fa, ci sia 95% legato al bene terra. Che cosa vuol dire? Avere la terra, da fare la terra, tutto dire la terra, eccetera. D'accordo? Quindi io quando prendo il carciofo, in realtà prendo il 95% di beni prodotti legati al bene terra, d'accordo? posso dire che poi ho un 4% legato a vari aspetti di commercializzazione del carciofo, ammesso che io sia in una società già abbastanza evoluta, no? In cui l'elemento carciofo può essere un elemento di scambio tra un bene e un altro, diciamo? E quindi, diciamo, poniamo 4% di commercializzazione, e diciamo 1% legato a un quid informativo legato al carciofo. Quid informativo che potrebbe essere abbastanza semplice, per esempio, no? Il passaggio delle sementi o il passaggio del sistema di coltivazione, no? O una serie di trucchi sul sistema di coltivazione, che ne so, che bene pubblico con delle quali secche e non bene pubblico con delle quali secche, che bene mettere l'escremento di capra invece di quello di mucca, che ne so, cose di questa natura, cosa. Ma è chiaro che nel bene carciofo prodotto 10.000 anni fa io ho, diciamo, grosso modo queste percentuali. D'accordo? Ci siamo? Avete capito il modo di approcciare? Un bene prodotto incapsula una serie di cose, ma non è soltanto lui, una serie di cose, di aspetti. Allora, vediamo improvvisamente questo carciofo, che qua abbiamo visto a 10.000 avanti Cristo, lo prendiamo e lo vediamo improvvisamente nel 1824, non so se è esatta la data, circa. Volevo cercare una data in cui fosse quasi sicuramente arrivato di qualche salto tecnologico. Il carciofo è apparentemente analogo, anzi possiamo anche dire che è esattamente lo stesso carciofo, d'accordo? Soltanto che viene prodotto nel 1824. Se noi lo guardiamo dal punto di vista delle sue elementi costitutivi, scopriamo una cosa molto bizzarra e molto interessante. Cosa scopriamo? Scopriamo che il bene terra è calato dal 95% al 60%. Scopriamo che quanto è legato in qualche maniera alla commercializzazione è salito dal 4 al 20 e che, diciamo al 30, e che l'informazione è salita al 10. Che cosa succede? Succede che vuol dire che il bene terra è diminuito e il bene, per esempio, legato alla commercializzazione è aumentato, perché il bene informativo è aumentato. Commercializzazione, produzione, trasformo, creazione. Vuol dire che siamo, perché ho citato quella data, in una società industriale, mentre la precedente era una società agricola. Ma come tu dici, ma sempre di carciofo parliamo? Esattamente, per questo è bello, sempre di carciofo parliamo. Ma la società è completamente cambiata. Quindi anche nella produzione dello stesso bene le cose sono cambiate. Sono cambiate. Che cosa vuol dire? Che incrementalmente parlando, il bene carciofo, dal punto di vista della terra, è diminuito. Cioè, relativamente parlando, pesa meno, mentre sono in crescita altri due fenomeni. Uno, legato alla commercializzazione e alla produzione. Che cosa vuol dire questo? Che sono arrivate nel mondo le macchine che servono sia a produrre il carciofo, sia a trasportarlo, distribuirlo, eccetera. La data a cui stavo pensando era, però mi posso sbagliare, come una delle prime elettrificazioni delle ferrovie in America, però posso sbagliare, può essere 15 anni dopo, 15 anni prima, no, 15 anni prima no, può essere ancora dopo, però insomma, per dire le linee ferroviarie, no? Che poi sono il simbolo di questa, uno dei simboli dell'industrializzazione. E il 10% di informazione fiscale cosa vuol dire? Vuol dire che il know-how legato in qualche maniera alla commercializzazione delle persone che vogliono distinguere, perché più noi vogliono dire una cosa molto specifica, vogliono dire che nel 10.000 anni Cristo il 95% delle persone lavorava in maniera direttamente legata alla terra. È una minima percentuale, era legata alla creazione di informazione e all'aspetto, come dire, che noi oggi chiamiamo terziario, che riguarda la commercializzazione e la distribuzione del corpo. Che vuol dire vedere questa situazione nel 1824? Vuol dire di fatto che, sempre guardando soltanto dal punto di vista del carciofo, diciamo, gli addetti sono variati. Attenzione, dal punto di vista del carciofo. Cioè noi stiamo dicendo che rispetto alla produzione del bene carciofo, sia la mia consiglio, 30% di persone in realtà non producono il carciofo da pasto, ma commercializzato. E il 10% lo produce, diciamo, da contribuendo al nuovo informativo legato a questa cosa. Quindi cominceranno ad esistere, per esempio, dei professori di agrari, per fare un esempio, o degli studenti di agrari, o altri, per fare un esempio. Che succede oggi? Sempre guardando il nostro cartofo. Succede una cosa importante, che il bene terra cala in maniera pazzesca. Diciamo, arriva nella produzione del carciofo a un valore del 20%. Siamo nel 2006. Che il fattore di commercializzazione, eccetera, sale enormemente, diciamo 40%. E il fattore informativo, anch'esso incredibilmente, sale di un altro 40%. Allora, pensando alla nostra persona che veniva 400 anni fa, e si trova in questa situazione, quello che bisognerebbe spiegargli per fargli cominciare a capire come sono cambiate cose è dire: guarda che in realtà anche nella produzione dei beni primari, anche tuo padre, tuo zio, tuo nonno, anche se non lavora direttamente la terra, è comunque una parte di popolazione che comunque lavora la produzione dei beni primari, anche se non come ricordante, cioè da fatto, ma magari insegnando in una università, o magari studiando, o magari distribuendo il carciofo, magari eccetera. Quindi in quel prodotto che ti ricordavi te, noi in realtà lo mangiamo ancora, c'è sempre una popolazione che lo fa, però lo fa con un bando diverso, con un meccanismo diverso. Questo fenomeno è il cuore di quello che si chiama terza ondata. Il sociologo che ha messo più chiaramente per primo a fuoco questo processo, e soprattutto ha scritto un libro sulla terminologia e riguardato questo, si chiama Alvin Toff, che ha scritto un libro appunto La terza onda, la terza onda. Qual era tutta l'idea sostanziale dietro? Che la storia dell'umanità si divide in tre grandi fasi, di cui la prima, la cosiddetta epoca agricola, va da subito dopo, dall'età del bronzo, alla fine del Settecento, alla seconda metà del Settecento, l'altra epoca, l'epoca industriale, che è quella che va dalla seconda parte del Settecento, sostanzialmente all'età più o meno avanzata degli anni 50 del Novecento, è la terza parte quella che chiamiamo. La prima cosa per capire è che non è che nelle tre epoche, le tre epoche sono caratterizzate, adesso veniamo a questo, da un salto tecnologico, da un avanzamento tecnologico, ma non è che i beni che si producevano nelle vecchie ere non servono più, non ci sono più, non è che oggi non si producono più carciofi, o non si producono più macchine. Le modalità per costruirle sono cambiate radicalmente, perché è cambiata questo pacchetto. Questo non è soltanto una cosa così, ma vuol dire la popolazione fa cose diverse. La popolazione fa cose diverse. O fa le stesse cose dislocate in maniera diversa di dopo, che è un altro fenomeno, l'accessore. D'accordo? Accanto a questo ragionamento, che è il discorso della percentuale, per cui noi capiamo che uno stesso prodotto viene prodotto in maniera completamente diversa, c'è il secondo discorso, che è quello del salto tecnologico. E cioè che nelle varie epoche c'è un vero e proprio salto tecnologico. Cioè, queste epoche variano così radicalmente proprio perché variano con dei veri e propri salti i mezzi tecnologici. Allora, dalla fase di nascita dell'agricoltura rispetto alle modalità produttive precedenti, è chiaro che c'è stato un enorme salto, la capacità di controllare il processo agricolo e gli elementi ha portato quello che ha portato, cioè la grande rivoluzione agricola che ha segnato la storia dell'umanità per molti migliaia di anni, il possesso della terra, il praticamento, le strutture mentali che sono nate, l'epoca industriale è segnata, e su questo torneremo, dall'avvento per la prima volta dell'uomo, dalla capacità di convogliare, di creare artificialmente energia. E convogliare questa creazione artificiale dell'energia attraverso un know-how tecnologico che lui già aveva prima, cioè le macchine, il concetto di macchine preesiste, come vi ho spiegato la volta scorsa, non è che le macchine nascono con la rivoluzione industriale. Con la rivoluzione industriale nasce la capacità di creare artificialmente energia e si applicano a, diciamo, dei sistemi tecnologici di moltiplicazione del lavoro, cioè le macchine, che avevano un milione di storia. Chiaramente innestato il nuovo processo, l'accelerazione turbinosa, no? In pochissimi anni l'uomo riesce a fare cosa che in pochissimi anni riferirebbe la storia dell'umanità. Ma il salto è questa capacità che avviene in quel momento per la prima volta, a quel tipo di intensità, di creare artificialmente energia. La società cambia radicalmente. Le città, i conflitti, le strutture sociali, tutto cambia. I modi di produzione del carbone. Naturalmente, con il salto tecnologico, avviene un fenomeno che io ho usato il fenomeno del carbone per farvi capire, ma chiaramente emerge, se noi guardiamo il totale della popolazione e non la produzione del carciofo, la cosa di cui ci rendiamo conto immediatamente è questa, che non soltanto nella produzione del singolo bene primario succede questo fenomeno, ma succede alla macro scala, cioè le persone che prima facevano, grandi parti di persone che prima erano legate alla produzione fisica del carciofo attraverso la terra, si spostano alla produzione dei beni industriali, quindi diventano sostanzialmente operati, no? Questo è questo fenomeno. Quindi diciamo c'è una ricomposizione totale della società. I ricchi, che sono sempre una cartina di tornasole fondamentale per capire quello che succede, diventano un'altra cosa. Prima erano i cosiddetti intermediari, proprietari, chi aveva la terra, successivamente nell'epoca industriale sono appunto i capitali dell'industria, quelli che hanno i mezzi produttivi industriali. I simboli dei nuovi prodotti, se prima era appunto la terra, il vento, gli elementi dei commenti, si smuovono nella fabbrica. La macchina, prima macchina a vapore, poi automobile, aereo, eccetera, sono i simboli di questa innovazione. Come diceva Toffler, noi siamo in una terza onda, in una fase ancora diversa, che lui appunto descrive in base all'informazione. L'elemento fondamentale diventa l'informazione. Quindi, che vuol dire che l'elemento fondamentale diventa l'informazione? Che oggi non è possibile produrre un carciofo, non è possibile produrre un carciofo se non siamo informativo. Che cos'è questo quindi informativo? di tutto, e dal tecnico che ti dà i contributi per come continuare il cazzo, alla maniera di commercialità non diffondere, alla maniera di distribuirlo nei vari posti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo anche nella produzione di beni primari diventa determinante l'elemento informativo. Chiaramente questo aspetto determinante è vie più forte mano a mano che ci si sale nella scala produttiva, mentre nel cacciopo è abbastanza ovvio, adesso te lo spiegherò, meno ovvio è per esempio nella macchina. La macchina, per esempio, è il classico prodotto della società industriale, vero? Ma in realtà le macchine oggi non sono prodotte, se noi facessimo questo pie chart anche per una macchina, con un livello informativo molto molto alto, molto molto alto. Non solo per la presenza dell'informatica come fatto fisico dentro la macchina, ma anche come meccanismo proprio conoscitivo di cambio. Ritorneremo a questi discorsi, ma vi lascio con una foto meravigliosa, perché di tanto in tanto io me ne vado in giro con la macchinetta fotografica e mi capitano le cose bizzarre. L'avete forse vista? Questa foto che è un'assoluta meraviglia, secondo me è. Poi voglio dire, può essere che non lo sia. Dunque, vediamo un attimo. Oh! Siamo al supermercato. A un supermercato, uno vende e guarda e vede questa scena. D'accordo? Cartello, si prega di passare mele Stark e mele Golden separatamente, anche se hanno lo stesso prezzo. Grazie. Dico, ma sogno o son desto? Guardo con più attenzione. Si prega di pesare mele Stark e mele Golden separatamente, anche se hanno lo stesso prezzo. Grazie. Allora, perché avviene questo? E qual è? Perché questo piccolo cartello è la prova di quello che vi ho detto. E mo sentiamo. Martino, parla di lui. Guarda, io poi non li associo, quindi è tutto casuale. No? Allora, mentre Martino scelta, andiamo a uno per genio. Non è lei? È lei. C'è lei. Valentina. Pena. C'è questa rara, è una cosa bellissima, guarda, non è bellissima. Non ve la voglio spiegare, lo avete capito voi. Perché? È una cosa molto bella, ma diciamo, voluta in fondo, non la conosciamo. Allora, lei, prego, lui dice. Quando si passa in casa, la cartella poi deve essere fare, a volte sono gli offerti, diciamo anche se non metta lo stesso verso, forse si lo chiama. Vediamo un altro. O comunque un ragionamento. Mossa e un può essere che a livello assolutamente avanzato che la cassa è particolare, quindi sa quante mele già le spariscono e quante. No, io credo non è problema questo. Io credo che un separato, a fine giornata, a fine settimana, si sa quante mele nostre possono ridurre e quante mele già le possono ridurre. Quindi alla fine non è meglio. È molto, molto importante. Se io finisce devo questo è un bello è un bello qualche altro e poi dire la gente a incontrare invece di schiavo sì sì vabbè poi il divergente per fortuna si viene dentro perché lui era lì. Aspettate, stiamo costruendo un passo. E il fatto in questo caso non è un finale, perché c'è, io so esattamente che è quello che viene fatto. E adesso ve lo spiegheremo questo per fare. Allora, sì. Le cambia continuamente. Allora, volevo altre cose, ci sono altre cose. Allora ci manca un pezzo fondamentale. Allora, per andare a soluzione ci serve l'arma del diritto. Se non abbiamo l'arma del diritto non riusciamo a risolvere. No? Qual è l'arma del diritto? C'è un'arma del diritto, cioè proprio che si può pure forte. Immaginate vividamente la vostra scena. Io sto pensando. L'arma del diritto è. Sto pensando alla cosa che fa prima. Vediamo. Che la bilancia per i bambini io deve spiegare. Scusate. L'arma del diritto. Qual è l'arma del diritto? Ragioniamo. Voi avete fatto la spesa, avete preso le vostre pene e le pene le avete fatte esattamente come loro dicono, non come loro si fa, perché più normale in comunità come si fa a fare le pene. Voi parlate, ma poi no. Immaginate adesso come un vero commissario, ci devo far pensare, pensate con grande attenzione, che cosa succede in quell'attimo in cui voi siete col carrello vicino alla tasca. No, pensate, perché tutti lo sapete. Che cosa succede esattamente? Cercate di ricordare la vostra memoria. La cassiera dice... Cassiera! Tessera è l'arma del diritto, ed ecco perché vi lascio con questa cosa, questo puzzle si ricompone, questa cosa è così importante, perché io per anni ho spiegato questo fenomeno, ma non avevo la foto. Un bel giorno ho trovato ed ero ancora, non ho trovato questa foto, stavo io una volta pronta e ho potuto scattare la foto che dimostra esattamente, capito com'è il diritto? Qual è il problema? Che nella testa c'è segnata la vostra età, la vostra condizione sociale, in alcuni casi le vostre preferenze di un tipo o di un altro, c'è qualche altra domanda che in realtà è messa surrettiziamente, ma in realtà costituisce un database enorme. Quando voi fate questo determinato modo, siccome tutto è legato ancora a questa tecnologia antica, il codice a parte, ma tra poco faremo un salto avanti, siamo anche noi stessi lavorando su un salto tecnologico, per poi questo lo lasciamo per noi questo. È legato a questa tecnologia, a cosa fare, che cosa succede? Succede che le mie informazioni, cioè di Antonino Sartre, che manca unicamente nelle bianche e non nelle rosse, è legato al database, per cui si sa che, diciamo, soggetto cinquantenne con certe caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera, che è la stessa. Ed è, di cosa succede? Siccome i miei dati informativi sono tutti legati a rete, tutte legate a rete, l'informazione arriva in Cina dove producono più bene, meno bene, tanto di fare la pubblicità, catania, eccetera. Tutto questo movimento si lega in questa apparente stranissima cosa che dà la grande lezione che non ci sono cose strane, ma semplicemente cose che noi non capiamo, che è una grande lezione, di questa cosa in modo fondamentale, in questi sono matti, giusto? Invece non sono matti, fanno esattamente un gioco informativo. Ed ecco perché la meta prodotta e commercializzata nel 2006 è profondamente diversa da quella del decennio. Con questo tema ci lasciamo, riprendiamo il prossimo lunedì, in cui probabilmente faremo un po' di tutorial, no? Faremo forse le FTP la prossima volta, nelle ultime ore, e in linea massima il programma è questo, faremo qualcosa di tutorial. Iscrivetevi, mi raccomando, non fate iscrivere più nessun altro corso, fate una pessima pubblicità, e ormai stiamo volando in questo standard Harvard, adesso siamo molto contenti, quindi assolutamente non fai più nessuna pubblicità di alcun tipo, facciamo una sperimentazione avanzata e quindi mercoledì ci vediamo là. I docenti altri che andranno avanti le cinque per interesse che sono via o comunque fare come una giornata di corso sarà anche più interessante, va bene? Arrivederci. Diciamo quella cosa, ecco, scusatemi un attimo, una cosa che ci avevamo dimenticato, un attimo di attenzione perché questo può essere interessante per molti di voi. Come vi dicevo, dal detto di Luca è anche docente di un corso di cui adesso vi parla, vi dice gli orari e un po' praticamente la struttura. Alcuni di voi che vogliono approfondire alcune cose possono seguire parte di questo corso o integralmente, e poi se è tempo possiamo anche dare dei crediti di testo. Non posso veramente come il corso, una relazione al disegno industriale. Noi vedremo anche nel corso dei vari tutorial, che portano diversi argomenti, quello della moderazione, però fatto nel corso di disegno industriale però fatto in maniera un po' più ampia di quello che riusciamo a fare, ci sono tanti in questo corso. Quindi se volete potete anche venire a seguirlo, c'è cioè da domani, martedì da mezzogiorno alle 3. Tutti martedì da mezzogiorno, quindi comincia a lavorare il corso. Sì. Quindi lavorare più fare una specie di produzione. Sì. Quindi forse di moderazione che ha interesse a o vuole imparare ancora di più questo sotto ambito, tu hai una serie di pacchetti che farai, di applicativi, utilizzerò un programma, è un corso di 25 ore, quindi non sono comunque tante. Quindi utilizzerò precisamente un programma di moderazione che è rimoto, l'ho scritto. Sì. Poi probabilmente anche un altro per diciamo, la visualizzazione, la creazione di immagini o di rendering, che è sempre finale, si chiama cinema. Abbiamo anche un programma molto bello che porta anche un'idea, anche un'infarinatura interessante, anche stare a una o due lezioni per avere proprio un'infarinatura, è un programma molto duttile, molto interessante da operare. Qui, quest'aula. Queste sono delle risorse, poi se c'è una strutturazione più importante si può, perché è improbabile che voi abbiate segnato questo corso nel piano di studi, però può essere interessante per voi per saperlo, se poi si formalizza un interesse più continuativo, un qualche extra lavoro, possiamo anche accordare dei crediti, questa è, diciamo, l'idea.